L'olè è troppo sfigato, sicuramente non è in tasca gli euro, non ha gli euro, è un nemico degli euro, non dovrebbe circolare liberamente, certa gente, mentre siamo amici dell'euro, invece, restiamo in Europa. A me mi sembri proprio uno sfigato, probabilmente non hai euro in tasca, no, non ce li hai, no, sicuramente no.